fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno, buon sabato a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare nella versione weekend, il sabato e la domenica mattina. Oggi iniziamo alle 7:30, staremo insieme fino alle 10, un'occhiata veloce come sempre alle pagine dei giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci porterà fino al giornale radio delle 8, poi riprenderemo con i nostri approfondimenti sempre a caccia, l'unico programma inimitabile a caccia di buone notizie, insomma dopo una settimana di cronaca, di cattive notizie, la politica, l'economia, tutto quello che volete, noi cerchiamo di trovare sempre il lato positivo delle cose e questo lo faremo a partire dalle 8, dopo il GR delle 8. Vi ricordo intanto i nostri contatti. Se volete interagire fin da subito con noi in tempo reale, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Naturalmente siamo anche al 349-238-6666 e poi dopo il GR delle 8, come detto, apriremo anche il numero verde per i vostri interventi. Adesso cominciamo subito con i giornali di oggi. Vai! E allora, giornali di oggi che naturalmente hanno foto di Roberta Vinci e Flavia Pennetta che stasera si sfideranno per la finale del torneo US Open di New York, una pagina storica per lo sport e per il tennis. Tutti insomma, commenti di grande esaltazione a parte degli sportivi, ma non solo, spesso sono anche i politici a buttarsi sopra queste vittorie per tirar su il morale alle loro elettorati, evidentemente. Ieri sera su Twitter era tutto un fiorire di commenti da parte di qualunque personaggio pubblico a sostegno delle due tenniste italiane che probabilmente fino a ieri l'altro non se le filava, metà di queste persone non se le filavano nemmeno, le due tenniste pugliesi. Poi naturalmente si parla di profughi, gli scontri sempre all'interno dell'Unione Europea, perché i paesi dell'est, Ungheria in testa, non mollano, si dicono sempre contrarie a qualunque piano di ripartizione, di ricollocazione. L'Unione Europea sta studiando anche la possibilità di escludere dai vincoli di bilancio i soldi spesi dai paesi europei per l'accoglienza. Siamo solo all'inizio di questa discussione, che però potrebbe essere una buona notizia per un paese anche come l'Italia, che sicuramente di questo avrebbe bisogno, ma non solo. Questi sono i principali argomenti, poi anche politica interna, ma col dibattito sulle riforme, ma anche di economia con i dati positivi della produzione industriale che ieri ha fatto segnare, dato di luglio, un più 1,1%, quindi una ripresa che si incammina. Il presidente di Confindustria Squinzi raffredda gli animi e dice stiamo calmi perché non è una vera e propria ripresa, c'è il prezzo del petrolio, il cambio dell'euro che ci hanno avvantaggiato. Per vedere una ripresa seria ci vuole ancora qualche conferma, però insomma tant'è. Sono segnali di fumo, segnali positivi della nostra economia. Cominciamo con il Corriere della Sera e il titolo principale è dedicato proprio alla questione dei profughi, sconti in Europa per chi accoglie. Sulle quote dei profughi tornano i due blocchi con il no dei paesi orientali. A proposito di questo tema degli sconti economici per i paesi che ospitano, l'argomento è questo: la richiesta è sul tavolo della Commissione europea a valutare l'impatto economico e finanziario della crisi dei migranti e arriva dall'Ecofin, il Consiglio dei Ministri finanziari dei 28 paesi europei tenutosi ieri. L'Unione europea aprirà una discussione sulla possibilità di considerare i costi sostenuti dagli stati per l'emergenza rifugiati come una circostanza straordinaria in relazione al rispetto delle regole del patto di stabilità. Vediamo all'interno, anzi no, prima velocemente un commento di Franco Venturini che anticipa la questione. Lunedì prossimo la Commissione presenterà ai ministri degli interni e della giustizia dell'Unione un piano migranti che fa leva sull'indispensabile solidarietà tra europei. L'Europa risponderà facendo un grande salto all'indietro e tornando a dividersi tra est e ovest. Gli ultimi dubbi sul no alle quote obbligatorie da parte di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia con la giunta della Romania e delle Repubbliche Baltiche, sono svaniti ieri quando il ministro tedesco degli esteri Steinmeier ha incontrato il cosiddetto gruppo di Visegrad per tentare di convincere questi paesi a accettare la loro quota di profughi. Cosa che ieri è stato ribadito: no, non c'è intenzione da parte di questi quattro paesi dell'est europeo di accogliere la loro quota di profughi. Siamo dunque, dice Venturini, alle prese con quella che potrebbe essere la più grave crisi nella storia dell'Europa. Parole queste riportate, ma sono le parole del ministro degli esteri tedesco Steinmeier, dette ieri in questo incontro. L'Ungheria è al crocevia della cronaca in queste ore per diverse ragioni. Allora, Corriere per esempio sceglie due foto per rappresentare la situazione. Gesti d'amore e di disprezzo è il titolo. Portfolio dal confine ungherese. In una foto c'è un poliziotto ungherese sorridente che dialoga con una bambina siriana piccolissima che gli sta offrendo un biscotto. E il poliziotto inevitabilmente si mette a ridere. Siamo a Szeged. Da un'altra parte c'è quindi una foto, diciamo, di distensione. La polizia ungherese sembra nelle ultime ore avere ricevuto ordini diversi rispetto a quello che è successo solamente poche ore fa, più distensione coi profughi. La foto a fianco invece è una foto di grande tensione, perché fatto il giro del mondo è il frammento di un video nel quale si vedono i poliziotti o membri della protezione civile ungherese gettare, diciamo così, panini al di là della barriera che li separa dai profughi, a questi profughi affollati, ammassati, che si buttano sul pane quasi fossero gli animali a cui si butta il mangime. Così è stata la denuncia di questa televisione austriaca che ha fatto le riprese. Ancora Ungheria, perché vi ricordate la reporter Petra, che aveva fatto lo sgambetto ai profughi con la gamba mentre riprendeva le immagini? Ecco, adesso è pentita. È stato un attacco di panico, dice Petra, perché nel frattempo ha perso il lavoro, è stata licenziata ovviamente dalla sua televisione, e anche direi forse giustamente, per dare un segnale, perché è stata una vicenda veramente pazzesca. È stato un attacco di panico, dice Petra, ho avuto paura di quel fiume che premeva con la forza della disperazione contro l'argine di una polizia spaesata e aggressiva. Petra Laszlo, fotoreporter ungherese che ha preso a calci i ragazzini e fatto lo sgambetto a un uomo anziano che correva con un bimbo in braccio, una scena che, insomma, che tipo di minaccia ti può arrivare da un uomo che corre con un bambino in braccio, non è chiaro. Lei gli ha fatto lo sgambetto. Questa scena è stata ripresa, lo ricorderete, da un operatore tedesco, e subito dopo lei è stata licenziata. Adesso chiede scusa: non sono senza cuore, non merito la caccia alle streghe né le minacce di morte, questo probabilmente no. Da oggi sono solo la madre disoccupata di due bambini piccoli che ha preso la decisione sbagliata in una situazione di panico. E insomma, quindi lei ammette di aver sbagliato, ma insomma era difficile difendere questa situazione. Poi, che cos'altro? Ancora in Ungheria, lo sapete, è stato fermato un italiano, un uomo di 50 anni circa, che nel suo camion aveva 33 siriani. Lui ha detto: gli ho dato solo riparo dal freddo, ma la polizia ungherese è convinta che lui sia un trafficante e per questo lo ha arrestato. L'uomo è Daniele Filippini, da Fino Mornasco, in provincia di Como. Oggi c'è l'udienza per la convalida del fermo. Che altro ancora? Abbandoniamo per un momento forse l'argomento immigrati, l'argomento profughi, e andiamo su Repubblica, che oltre alla fotonotizia con Flavia Roberta, la storia siamo noi, il commento di Gianni Clerici, stappiamo lo champagne, mi dice mia moglie a proposito del due tenniste italiane in finale a New York, meglio lo spumante, rispondo io. Questo è il commento di Clerici. Mentre mi sento curiosamente patriottico e nel mio europeismo nazionalista, perché sia Robertina Vinci sia Flavia Pennetta vengono dalle Puglie, da due città come Bari e Taranto, dalle quali mai prima di loro era uscito mezzo tennista. Adesso di tenniste ce ne sono due grandissime, lo erano anche prima, grandi. Adesso sicuramente, per quanto riguarda l'Italia, entrano nella storia. Poi, insomma, vista l'età delle due tenniste, non faranno grossi, credo, ma adesso qualcuno mi criticherà, grossi passi in avanti nelle classifiche internazionali, probabilmente qualche passo sì, ma insomma tant'è, però per noi è un risultato storico. Adesso poi andremo anche sulla Gazzetta, vedremo altri commenti, però prima un'altra notizia che riguarda la politica, perché c'è il sondaggio su Repubblica sul gradimento in questa fase, diciamo, sui partiti politici. Renzi risale, volano però i grillini, Forza Italia va a picco. Cosa dice il sondaggio? Il Partito Democratico guida, diciamo, le preferenze dei possibili elettori ad oggi col 33,1%, il confronto va fatto con il 40,8% delle europee del 2014, segue il Movimento 5 Stelle che ha un 26,7%, era al 21% alle europee, la Lega Nord raddoppia i consensi e passa da un 6% a un 14%, quindi più che un raddoppio. Forza Italia cala dal 16,8%, già misero risultato ottenuto alle europee del 2014, calando a un 11,4%, non pervenuti più o meno gli altri partiti. Prima di andare in pausa, uno sguardo anche al gradimento dei leader. Renzi resta in testa con il 42%, Salvini lo tallona col 31%, affiancato dalla Giorgia Meloni 31%, poi Luigi Di Maio 29%, Grillo 27%. A proposito di Di Maio e del Movimento 5 Stelle, lo sapete, c'è stata una specie di marcia indietro di Grillo, che aveva detto è lui l'erede, è il mio erede, Luigi Di Maio. Poi ieri, assediato dai cronisti, Grillo ha fatto una marcia indietro. Decide la rete, ha detto. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle lo sceglierà la rete. Beppe Grillo, dopo avere mercoledì scorso, scrive Repubblica, collocato il vicepresidente grillino della Camera sul piedistallo di avversario di Renzi alle prossime elezioni politiche, ieri lo ha rimesso al suo posto, assalito dai cronisti all'uscita dell'albergo romano che lo ha ospitato in questi giorni, tempestato di domande sull'investitura di Di Maio. Grillo ha risposto: cercate di fare informazione un pochino più obiettiva, inventatevi qualcos'altro invece di cercare solo titoloni, altrimenti il paese ne soffre. Sul candidato premier del Movimento 5 Stelle ha detto: si sceglierà in rete come abbiamo sempre fatto. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno e benvenuti da Alessio Maurizi. Ancora fino al giornale radio delle 8, un'occhiata ai giornali di oggi. Adesso qualche titolo diverso rispetto a quello che abbiamo letto fino ad ora. Per esempio c'è il giornale che punta su questo, sul tema delle pensioni. La fregatura è il titolo di prima pagina, il governo si rimangia la riforma delle pensioni, l'esecutivo si piega a Bruxelles, ci tocca la legge Fornero per altri 3 anni. Scrive Antonio Signorini, l'esecutivo fa ancora una volta un passo indietro, si rimangia una promessa. Ieri infatti il governo ha annunciato il congelamento alla modifica alla legge Fornero per non irritare Bruxelles. Poi c'è chi, per esempio, come il Manifesto, titola con una foto sulla manifestazione di ieri che c'è stata in diverse città italiane, la cosiddetta marcia degli scalzi, il ponte degli scalzi a piedi nudi nello stivale da Venezia a Palermo, la marcia per l'accoglienza ai rifugiati riempie le città nel vuoto della politica, mentre alle frontiere europee Orban annuncia l'arresto per i migranti illegali. E alla vigilia del vertice di lunedì tra i governi dell'Unione Europea la confusione regna sovrana. Sole 24 ore con argomento economico, naturalmente, l'abbiamo detto in apertura, è una buona notizia, vedremo se ci saranno conferme. A luglio la produzione industriale sale del 2,7%, effetto auto ed energia sull'attività industriale, Squinzi dice dati positivi, speriamo si confermino nei prossimi mesi. L'analisi di Paolo Bricco, la convalescenza è ancora lunga, però il paziente, il sistema industriale italiano, non è morto, e questo nonostante una recessione durissima che ha ridotto le dimensioni del suo apparato scheletrico, diciamo così, l'impiantistica, scrive Paolo Bricco, e delle sue masse muscolari, le manifatture, eliminando dal 2008 un quinto della capacità produttiva, cioè malaticci, ma in fase di ripresa. La stampa ha un'intervista proprio al presidente di Confindustria Squinzi, su cui titola la proposta di Squinzi ai sindacati è nuovo patto sui contratti. Intervista al presidente di Confindustria che sfida i sindacati sul coraggio di cambiare. Ai sindacati dico, abbiate il coraggio di guardare più lontano, vi proponiamo una formula innovativa sui contratti di lavoro che serve a tutti per affrontare un mondo che è cambiato e dove le vecchie logiche non valgono più. Vogliamo modernizzare le relazioni industriali, dice Squinzi, perché è assolutamente necessario e a voi chiediamo una risposta senza timori. Così il presidente degli industriali apre il confronto sulla contrattazione con CGIL, CISL e UIL. Il Giorno invece, il quotidiano del quotidiano nazionale, ma il Giorno lombardo, dedica un titolo di prima pagina al processo per Yara Gambirasio. Bossetti davanti alla madre di Yara, sguardo teso al processo. Ieri sono stati sentiti i due genitori. Mentre Bossetti fissa la madre di Yara, non ho paura del suo sguardo. In aula la donna si svolta un attimo verso l'imputato seduto tra i legali. Le dichiarazioni della madre e del padre, lei era il sale della nostra vita, padre in lacrime e giuria commossa. La mamma quel giorno aveva preso voti bellissimi in pagella ed era serena. Una famiglia, Gambirasio, scrive il Giorno, dove si vive in armonia, ma nella quale vigono regole ferree che mamma Maura, più ancora che papà Fulvio, provvede a insegnare a fare rispettare quattro figli, Yara è in terza media, alle Orsoline di Bergamo. È sempre stata molto attenta, ha detto la mamma ieri, non accettava un passaggio anche se conosceva la persona che glielo offriva, era così già di indole, diffidente, io le ripetivo di non dare confidenze a estranei, non era mai successo niente, era una raccomandazione preventiva quando le dicevo che se vedeva una situazione di pericolo doveva entrare in un negozio e guardare fuori se vedeva un agente di polizia, quindi una famiglia super scrupolosa. Che lascerebbe pensare a una figlia, se seguiva le indicazioni dei genitori, super prudente, tanto da non cadere nel tranello del passaggio di qualcuno, cose di questo genere. Yara era rimasta anche molto colpita dal caso di Sara Scazzi, sul caso di Avetrana. Era andata su internet, sul PC del padre, a cercare, a fare una ricerca no alla violenza sulle donne. Quindi, nonostante i suoi soli 13 anni, era già comunque un po' turbata e preoccupata da certi casi di cronaca. Questa, diciamo, è la cronaca invece del processo appunto a Bossetti, nel quale ieri i genitori di Yara hanno dato la loro testimonianza. Torniamo sul successo del tennis italiano a New York. La Gazzetta dello Sport, We Love You, incredibile impresa azzurra agli US Open, fantastiche Vinci e Pennetta, finale tutta italiana. Prima Flavia fa fuori la Halep in meno di un'ora, poi Roberta compie un vero miracolo eliminando la super favorita Serena Williams. Stasera, quando saranno le 21 in Italia, giocheranno per il titolo, una partita tutta da vedere per gli appassionati di tennis. Vinci e Pennetta ancora all'interno della Gazzetta, in finale New York è già nostra. E poi insomma si ricordano le altre storiche vittorie del tennis italiano, perché non sono molte, bisogna tornare al 1959-60 quando Pietrangeli vinse Roland Garros a Parigi, oppure quando ancora a Parigi nel 76 Panatta vinse battendo l'americano Solomon, oppure nel 76 la famosa vittoria di Coppa Davis, o nel 2010, queste sono le uniche grandi vittorie del tennis italiano nel mondo, Francesca Schiavone vinse sempre a Parigi al torneo di Roland Garros. Brave Flavia e brava Roberta. Adesso ci fermiamo, tra poco c'è il giornale radio, ci risentiremo dopo il GR delle 8, appunto parleremo, andremo a Bologna dove si anticipa in qualche modo una richiesta che arriva dal Parlamento europeo sul riconoscimento dei diritti alle coppie omosessuali. A Bologna una decisione che anticipa questo per quanto riguarda i genitori e le scuole, alle scuole materne, una decisione che naturalmente fa discutere. Poi faremo anche il punto su questa crescita, ripresina più 1%, la ripresa dei consumi. Ne parleremo con chi ce la mette davvero tutta per fare la crescita economica, lavoratori che hanno investito i loro risparmi per salvare la loro azienda. A dopo, dopo il GR delle 8. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funky up, uptown funky up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, di nuovo buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, ben ritrovati soprattutto con il buongiorno del weekend di Radio 24, si può fare il sabato dalle 7.30 alle 10, la domenica questa edizione dalle 8.30 sempre alle 10, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, l'unico programma inimitabile, l'unico programma sempre a caccia di buone notizie, così per dire, per esempio, cominciamo questa settimana ci lascia in eredità i segnali di fumo dell'economia italiana. La crescita dei consumi più 2,1% quest'estate sembra poco, ma sempre meglio dello zero, del niente, della stagnazione che c'è stata sin qua. Oppure ieri il dato sulla produzione industriale più 1,1% a luglio su base nazionale annua, scusate, quasi più 3%. Ripeto, segnali di fumo dell'economia italiana, segnali positivi, sicuramente non siamo fuori dalla crisi, sicuramente ripresina, rimbalzino, tutto quello che volete, il lavoro manca ancora, però meglio di niente. Tra poco ne parleremo con chi ce la mette davvero tutta per uscire dalla crisi e per fare la crescita economica, cioè dei lavoratori che hanno investito i loro risparmi per salvare l'azienda dal fallimento, ne parleremo tra poco. Intanto vi chiedo subito all'800 24 00 24, voi questi segnali di ripresa li vedete, li avete visti attorno a voi, code nei ristoranti, siete andati, che ne so, a comprare l'ultimo smartphone, siete arrivati al negozio, era già finito perché è arrivato qualcuno prima di voi, evidentemente c'è crisi, però poi i soldi girano. Oppure, che ne so, quest'estate in spiaggia c'era meno spazio tra un ombrellone e l'altro perché c'era talmente tanta gente che evidentemente spiagge piene, anche questo è quello che ci lascia in eredità questa estate. 800 24 00 24, i vostri segnali di ripresa, se li avete visti oppure se malauguratamente invece non li avete visti. Adesso invece cominciamo con un'altra storia, un si può fare in forma di domanda. Si possono dare ai cittadini gay gli stessi diritti delle altre persone? Ce lo chiede per esempio il Parlamento Europeo, che questa settimana consegna all'Italia una relazione nella quale si chiede appunto al nostro paese, rimasto forse l'unico, basta guardare la cartina d'Europa, a non riconoscere nemmeno le unioni fatte all'estero. Su questo siamo, insieme alla Repubblica Ceca, gli unici in tutti i 28 paesi dell'Unione Europea. Un testo di legge c'è, Renzi ha detto, il testo Cirinnà, che entro la fine dell'anno sicuramente ci sarà una legge sulle unioni civili, sulle coppie omosessuali in Italia. Intanto a Bologna c'è un regolamento comunale che anticipa, in assenza di questa legge, almeno per quanto riguarda un aspetto, cioè la gestione dei figli alle scuole materne, una legge che però fa discutere. L'ho imparato da mia madre, che lo diceva sempre a mio padre: tutti gli uomini sono bugiardi, bevono, giocano e tornano tardi, tutti uguali, tutti uguali. Ma nel mio letto poi alla sera mi si insegnava un'altra preghiera: faccio Signore tutti quanti, tutti buoni, tutti santi, tutti uguali. Tutti uguali. Io venni su tra vecchie case e panni stesi. Tutti uguali. Buongiorno a Valentina Castaldini, consigliera comunale di Bologna, di Nuovo Centrodestra, di cui è anche portavoce nazionale. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, ce lo chiede l'Europa. Neanche questo basta a far cambiare posizione. Partiamo da qua, dall'aspetto più ampio. Poi arriveremo anche alla questione di Bologna, che la riguarda direttamente, essendo lei consigliera comunale. Parliamo dalla richiesta che arriva dal Parlamento Europeo di Strasburgo per quanto riguarda il riconoscimento delle coppie omosessuali. Non basta neanche la richiesta dell'Europa a farvi cambiare idea? Non credo che sia l'Europa a dover decidere che cosa dobbiamo legiferare noi in Italia. Facciamo un primo aspetto. Adesso va bene che dalle vongole a qualsiasi altra cosa deve decidere l'Europa. Questo è un tema un po' delicato e forse è giusto che sia il Parlamento a decidere. Non mi sembra che oggi sul tavolo non ci sia niente, c'è una discussione molto ampia e non siamo certamente noi quelli contro le unioni civili, stiamo facendo una discussione dove noi riteniamo di dover riconoscere chiaramente i diritti. Scusi Castaldini, per caso sta usando il viva voce perché o qualcosa del genere? Bisognerebbe che lo togliesse, se possibile, perché altrimenti la sentiamo male. Allora, no, la questione è questa, ecco, che sì, mi sente, va bene, perfetto, perché ho un cellulare sgangherato. Allora, il punto è esattamente questo, cioè che noi non siamo assolutamente contro ai diritti delle persone, soprattutto contro le unioni civili. Stiamo cercando di ripetere circa da quando è cominciata questa discussione quali sono i nostri due punti fondamentali, sì. E cerchiamo che su questo ci sia una discussione e anche una convergenza. Il discorso è chiaro e semplice, cioè c'è un punto fondamentale che è la questione delle adozioni, il famoso stepchild adoption, che è stato dato un nome inglese, e noi su questo vorremmo che la discussione fosse aperta, e la questione sulla reversibilità. È che noi siamo quelli brutti e cattivi e non ci rendiamo conto che c'è bisogno di diritti, non è che ce lo deve venire a dire l'Europa, non è questo il punto. Quindi diciamo che venga fatta una discussione, come dire, approfondita, sì. C'è stato qualche mese fa, penso, una manifestazione abbastanza significativa di cittadini che vogliono essere ascoltati. Poi uno può essere d'accordo o no, però non va sempre bene che quella manifestazione noi non la guardiamo neanche, altre manifestazioni invece le guardiamo. Allora, il punto è esattamente questo: trovare un accordo e trovarlo sensato, ma non per tutelare, come dire, gli adulti, ma per tutelare il bene dei bambini, no? Noi facciamo una discussione talmente elementare. Voi siete contro quello che è previsto nella proposta, credo proprio ci sia anche nel testo Cirinnà, però la proposta del governo, l'ha detto Renzi più volte, la possibilità di adottare il figlio biologico, mettiamo una coppia di omosessuale, uno dei due ha un figlio biologico e l'altro è il compagno della coppia, si darebbe la possibilità di fare l'adozione in questo caso. Voi su questo restate contrari? Noi su questo rimaniamo contrari, abbiamo delle perplessità, perché secondo il nostro parere quel testo di legge apre la possibilità di tutta la questione annosa, molto grave, dell'utero in affitto. Allora, noi su questo vogliamo, come dire, delle rassicurazioni, ma credo che siano rassicurazioni dovute a noi e dovute anche a chi ci sta ascoltando, ma anche agli italiani. Però c'è, questo ci può portare subito al caso di Bologna, dove proprio sulla questione dei bambini e delle coppie omosessuali si è aperta una questione, perché c'è un regolamento, un nuovo modulo che il comune da quest'anno offre a questo tipo di genitori per autocertificarsi e in qualche modo parificare il compagno o la compagna del genitore biologico del bambino in tutto e per tutto per quanto riguarda l'accompagnamento del bambino, il ritiro e tutta una serie di altre cose che si fanno normalmente nelle scuole dell'infanzia. Ma guardi, ma magari questo fosse un regolamento e magari questo sindaco prendesse il coraggio di scrivere regolamenti. E penso, e invece? Perché questo è semplicemente un modulo che uno fa, il modulo che uno quando va all'URT trova, quindi un modulo fatto dall'amministrazione, per cui con responsabilità legali anche gravi. È un modulo dove sostanzialmente si chiama modulo omogenitoriale. Allora, qui il punto è che io uso la logica che è questa: se non esiste una legge in Italia, no? Oggi non esiste una legge in Italia che non riconosce quelle coppie, ok? Che non riconosce che quello sia la madre o che quella sia la madre, ok? Quello sia il padre o la madre. Bene, perfetto. Allora, di quel modulo io non me ne faccio niente, perché non basa su una legge, non esiste la legge. Però forse quindi è proprio per questo, proprio perché non c'è una legge, bisogna fare, scusi, le faccio speriamo di no. No, il sindaco Mera non farà una legge, dal suo punto di vista fa un regolamento che va proprio, diciamo così, a colmare quello che dal suo punto di vista e della sua maggioranza è un vuoto. Facciamo un esempio: io do la delega alla babysitter per andare a prendere la bambina, devo dare la delega anche al compagno che mi sono scelto per una vita per andare a prendere il figlio, oppure è giusto che ci sia un riconoscimento da questo punto di vista, di una facilitazione, una differenza tra quello che è una babysitter e quello che invece è il compagno o la compagna del genitore del bambino? Però mi si permetta, allora ribadisco, l'anagrafe in Italia è una cosa molto seria, perché da questo si implica tantissime responsabilità. Allora io mi immagino, dal momento che non c'è una legge, una maestra che consegna un bambino che casomai ha visto tutti i giorni, per carità, quella persona la deve prendere tutti i giorni. Ma beh, certo, ci vive in casa. Certo, per cui la vede, per cui ci mancherebbe. Però, come dire, la legge è una roba seria e un sindaco dovrebbe farla rispettare, non alla festa dell'unità prende il microfono e dice vi ho creato un nuovo modulo così voi siete contenti. Perché questa qui è una roba che ne va, la responsabilità legale è su di lui, è su quella mamma, è su quell'insegnante. Vabbè, non avrebbe dovuto fare l'annuncio alla festa dell'unità, no, mettiamola così. Rendiamo conto, cioè, questo è il livello, perché tra l'altro l'annuncio non l'ha fatto neanche lui, cioè il modulo è stato scritto dalle associazioni, che va benissimo perché è un desiderato, è una cosa giustamente che oggi è sul tavolo del Parlamento, però il punto è la realtà e la finzione, questa è finzione perché siamo in campagna elettorale ed è triste. Però scusi, questo tipo di previsione, uscendo dalla polemica tra lei e il sindaco Merola che ci sta tutta dal punto di vista politico, eccetera eccetera, il conto contenuto di questa norma va bene dal punto di vista contenutistico, cioè una futura legge italiana su cui lei dice non siamo contrari a riconoscere i diritti alle persone gay, in questo caso si arriverà anche a equiparare il compagno o la compagna nella presa a scuola del bambino alla scuola materna, oppure anche su questo siete contrari, cioè ci vorrà comunque dal vostro punto di vista una delega perché il compagno o la compagna di una vita di un genitore non può essere equiparata a un genitore. Mi spieghi questo? Allora, il punto è che sostanzialmente quando noi andremo a modificare questa legge, no? E andremo a vedere questa legge, cioè, quel bambino rimane primo un bambino adottabile quando l'altro genitore dice puoi adottarlo, ok? Cioè qua si fa una discussione senza pensare all'host, cioè questo bambino avrà un padre che lo renderà non adottabile, spero, perché lo vorrà vedere ogni tanto, no? Pensiamo anche a questo aspetto, perché un bambino viene adottato se viene abbandonato, allora essendo che esisterà un padre biologico, una madre biologica che dirà beh, quel bambino è mio e lo vorrò vedere, e questo è esattamente il punto. Allora il problema è lo stato di famiglia, ok? Che cosa c'è nella mia famiglia, e su questo è chiaro che ci dovrà essere una discussione, però quel bambino rimane che c'è un padre e una madre, e onestamente la questione delega, per semplificare, non sembra una tragedia, perché o noi diciamo che la realtà, mancano dei pezzi di realtà, oppure dato di fatto che quel bambino può essere preso da chi dico io, essendo io la madre e decido io, l'ho compilato l'altro ieri per i miei figli. Sì, però non credo, cioè, però dalla madre, non credo che lei voglia dire che può andare a prendere alla scuola materna un bambino, la madre biologica, se magari trattasi di utero in affitto piuttosto che il compagno o la compagna della persona, questo sta dicendo? Cioè, capisce che dal momento che appunto questa cosa è un po' delicata, cioè, secondo me ci vuole una riflessione e non continuare a dire che noi stiamo facendo ostruzionismo, è che evidentemente ci sono dei punti. Sicuramente ci vuole una legge, sicuramente su questo sicuramente, siamo d'accordo. Esatto, ci vuole una legge perché non possono essere i sindaci ad intervenire caso per caso. Esattamente. Va bene, sul contenuto della questione Bologna abbiamo chiarito. Ci siamo sentiti quest'estate, abbiamo parlato della polemica col sindaco di Venezia Brugnaro ed Elton John. Alla fine, però, anche Brugnaro ha cambiato idea, lo ha invitato a Gay Pride, se ci sarà, a Venezia. Sì, così ho sentito adesso io su questo sindaco. Lei aveva detto che avrebbe dovuto cambiare consulenti, no, di comunicazione. Ho detto che se, no, ho detto che non era stato compreso. Ho detto che non era stato compreso e aveva fatto certe dichiarazioni su Mica. Adesso poi è cominciata anche la trasmissione, per cui ho detto che non era stato compreso. In realtà aveva difeso e aveva detto no. Poi dopo non era stato capito. Voi avete detto che non era stato capito. Ma Ma quindi me, meglio il Brugnaro 2 o il Brugnaro 1? Meglio il Brugnaro dialogante o il Brugnaro che accusa il Brugnaro che fa il sindaco, come Merola che fa il sindaco. Ecco, io sogno questo, che ognuno faccia il proprio mestiere, secondo me è la linea giusta. Va bene, grazie, grazie, buona, grazie giornata. A voi, buona, buona giornata, grazie. 800 24 00 24 con Valentina Castaldini, consigliera comunale di Bologna, sul caso dell'autocertificazione per i genitori gay nelle scuole di Bologna, la svolta del sindaco Merola che, in assenza, l'abbiamo già detto, di una legge in Italia e dal punto di vista della Castaldini colpevolmente, proprio perché non c'è una legge, ha pensato però con questo regolamento, con questo modulo, diciamo, di dare la possibilità ai genitori gay di essere parificati ai genitori naturali dei bambini per quanto riguarda la gestione dei figli alle scuole materne. Cosa ne pensate? 800 24 00 24, ci risentiamo tra un attimo. si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati cari ascoltatori con Si può fare dalle 7.30 fino alle 10, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Vi aspettiamo per commentare, oltre che la notizia che avete appena sentito che riguarda Bologna, dove un comune, il primo comune italiano ad adottare un modulo specifico per bambini che hanno due genitori dello stesso sesso e che così potranno partecipare alle riunioni scolastiche, ritirare i propri figli, firmare le autorizzazioni senza dover ottenere la delega dal genitore biologico. Abbiamo sentito il consigliere Castaldini di Nuovo Centrodestra, portavoce nazionale, che è contraria a questa possibilità. 800 24 00 24, vi aspettiamo però anche per che ci raccontiate i vostri segnali di ripresa economica. Questa settimana ci consegna un dato positivo sulla crescita dei consumi, più 2,1%, un dato positivo di ieri sulla produzione industriale, più 1%. Ve ne siete accorti? Ecco, così 800 24 00 24. Anche oggi mettiamo in palio un piccolo premio, il mini guida di Expo, per l'intervento più originale, più interessante. Adesso andiamo a conoscere chi, abbiamo già detto, ce la mette veramente tutta per fare la crescita economica. Non scordarti che può sembrarti strano adesso, oh no, mai nessuno ha detto è facile. Può cambiare tutto in un secondo, ricordati, niente è impossibile. Questa vita è un gioco. Niente è impossibile, come per esempio trasformarsi da dipendente di un'azienda a imprenditore di quella stessa azienda. È caduto alla Patrolline, dove 9 dipendenti, per scongiurare la cessazione delle attività dell'azienda, hanno dato vita a una cooperativa con l'obiettivo di dare continuità alla storica azienda. Ne parliamo con uno di loro, il presidente della cooperativa Patrolline Group di Albavilla, Angelo Chianese. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie di essere con noi, benvenuto. Io ho detto, incontriamo qualcuno che ce la mette davvero tutta per fare la crescita, per portare sviluppo in questo paese. Voi siete partiti da una scelta di necessità, perché la vostra azienda era sull'orlo del fallimento. Sì, correttamente. È un'azienda che è nata nell'86 e per lungo tempo ha perseguito i propri obiettivi. Un'azienda occupata sia sul ramo elettronico che sul ramo elettrico. Siamo produttori e fornitori di importanti aziende internazionali, come siamo la forza motrice delle macchine del caffè che ogni mattina ci aiutano a svegliarci. Ah, e quindi facciamo parte del movimento. L'azienda, appunto, come ha detto lei, ha vissuto un momento di difficoltà. A quel punto ci siamo sentiti in obbligo, personalmente ho condotto insieme ai miei colleghi questa avventura, per dare e continuare a mantenere un segno di continuità su quello che si era creato in precedenza. La cosa, dunque, voi poi avete investito del vostro, avete messo, credo, anche del TFR, adesso lei ci racconterà esattamente. La prima cosa che le voglio chiedere però è che non siete riusciti a, o non avete voluto coinvolgere tutti i dipendenti, 9 su 17 occupati, è così, come mai? Sì, purtroppo questi processi inevitabilmente hanno questo genere di condizione. La crisi economica aveva evidentemente affaticato parecchio la precedente gestione, quindi inevitabilmente davanti a una scelta del genere, dove veniva chiesto un impegno profondo come tutto il TFR, una parte ovviamente dei risparmi personali che nel corso del tempo avevamo accantonato via, più un'autolimitazione del nostro stipendio pari al 25% sull'lordo, a questa scelta non tutti, lei che mi capisce, non tutti sono riusciti a fare questo passo. Quindi, riassumendo, voi avete investito il TFR degli altri risparmi per diventare, diciamo, per mettere la vostra quota in questa cooperativa e avete pure, diciamo, dovuto abbassarvi il salario di un quarto. L'abbiamo fatto consapevolmente, sperando che questo potesse ridare all'azienda quell'impulso vitale per continuare attive le produzioni. E come è andata invece sul fronte del portare avanti il lavoro dell'azienda, convincere i creditori, i clienti, tutti? È stata una bella sfida, le dico realmente che non è stato facile passare da dipendente a imprenditori, perché se da dipendente è facile nascondersi dietro la figura di riferimento, oggi nei confronti dei clienti, nei confronti dei fornitori siamo esposti in prima persona. Questo non è una cosa negativa assolutamente, è una presa di coscienza delle proprie obblighi, necessità e serietà. Le dico anche che molti di noi nel frattempo avevano ricevuto offerte di lavoro, scegliere una condizione di lavoro subordinato a qualcuno magari avrebbe fatto comodo, qualcuno ha anche accettato questa direzione. Noi, il gruppo Il 9, abbiamo deciso invece di prendere in mano, abbiamo raggiunto ormai, siamo un gruppo tra i 43 e i 46 anni, abbiamo deciso di prendere in mano la nostra vita e cercare la nostra strada in questa direzione. Chianese, resti un attimo ancora con noi, il presidente della cooperativa Patroline Group di Albavilla. Voglio fare ancora un paio di domande su questa scelta forte che avete fatto di passare da dipendenti a imprenditori. Dobbiamo fare una piccola pausa per il traffico, poi torniamo e sentiamo anche gli ascoltatori 800 24 00 24 sui loro segnali di ripresa. Tra un attimo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, vi aspettiamo all'800 24 00 24, dato che l'ho chiesto agli ascoltatori, lo chiedo anche a lei, Chianese, come presidente di questa cooperativa che ha rilevato la Patroline di Albavilla. Li vede dei segnali di ripresa attorno a sé per quanto riguarda l'economia italiana? Sì, le confermo anche da parte nostra su questo settore, noi siamo impegnati principalmente sull'automotive, quindi quello che si muove. È da un paio di anni che registriamo, seppur timido, comunque un aumento costante. Anche quest'anno è confermato appunto dal lavoro. Tenga considerazione che il nostro prodotto è un prodotto che finisce come sistema di protezione per moto, auto, quindi siamo legati direttamente all'immatricolato, quindi il segno più dell'immatricolato inevitabilmente ci trascina verso una crescita. Sì, quest'anno anche sulle moto le stesse aziende che noi formiamo, e stiamo parlando di aziende molto importanti, quindi fornitori ufficiali in Ducati, Borgo Panigale, fornitori ufficiali MV, Yamaha Motor Italia, queste aziende avendo la possibilità di crescere trascinano l'indotto di aziende più piccole come la nostra a fornire e quindi aumentare i propri volumi sul venduto. Sì, anche perché l'auto è uno dei settori che hanno trainato di più questa ripresa o ripresina o rimbalzino, sì, che dir si voglia, credo di cui 2008 siamo. Quando è iniziata questa lunga crisi è stata proprio l'auto quella più penalizzata e quindi tutto l'indotto che in Italia è molto importante ha subito inevitabilmente un contraccolpo. Senta, le posso chiedere quanto avete investito personalmente, ognuno di voi, soci di questa, nove soci di questa cooperativa? Ovviamente per il TFR stiamo parlando di una cifra, tutti i radioascoltatori la potranno immaginare, equivalente a circa 10-12 anni di attività presso la propria azienda. Sì. Per quanto riguarda la parte di investimento personale, chi più chi meno, aggiungo anche questa parte che comunque serve a comprendere meglio la condizione, l'azienda nel corso della crisi non è riuscita a onorare tutti gli stipendi, quindi inevitabilmente noi siamo andati in sofferenza, raggiungendo addirittura 8 stipendi. Nonostante questo, davanti a questa possibilità, e ci tengo a sottolineare però che tutto questo è nato grazie a un supporto che abbiamo ricevuto attraverso una persona non si sveglia la mattina e capisce da quale direzione deve andare e può andare in questa condizione. Siamo stati accompagnati dalla Confcooperativa in Fibria, di cui ringrazio il presidente, il signor Frangi, il dottor Michele Piscitelli, proprio perché ci hanno indicato quali erano i mezzi e quali erano le possibilità. La sento un po' male, Chianese, in chiusura di intervista sento un po' l'audio intubato, non so se si è smosso qualche cosa. Un'ultima domanda gliela volevo fare velocissima, mi risponda con un flash anche perché appunto l'audio non è al massimo. Utilizzerete il Jobs Act per fare delle assunzioni, la decontribuzione, quella cosa che ha messo in piedi il governo Renzi, dando, diciamo così, sperando che contribuisse alla ripresa economica o no? Guardi, questa è una domanda che stiamo valutando internamente, sembrerebbe uno strumento valido per poter andare avanti. Ovviamente le condizioni interne dell'azienda oggi non ci permettono di fare di far ripartire un'azienda che andava male, non vuol dire domani riuscire a riassumere ulteriori persone. Però sarà non un processo escluso. Sicuramente valutativo. Non è escluso. Va bene, grazie Angelo Chianese per essere stato con noi. L'avete sentito, il presidente della cooperativa Patroline, che ha rilevato questa azienda storica di Albavilla. 9 dipendenti su 17 si sono rimboccati le maniche, hanno investito e adesso l'azienda va avanti, speriamo, lunga vita. 800 24 00 24, vi aspetto anche per sentire i vostri segnali di ripresa. Anche oggi mettiamo in palio un piccolo premio, la mini guida di Expo per l'intervento più interessante, più curioso. C'è un ascoltatore che mi rimprovera di aver utilizzato, a proposito della vicenda invece di cui abbiamo parlato prima, Bologna, il modulo per i genitori dello stesso sesso alle scuole materne, di aver utilizzato l'espressione gestione dei bambini, come se fosse un parco macchine, scrive Maddalena D'Aiesi. È vero, è un'espressione che non si adatta molto a dei bambini, ma volevo semplicemente far capire che stavamo parlando di questo, cioè di come i genitori si apportano alla scuola in merito al portare i figli a scuola, fare le riunioni, cioè gestione, ma non in senso necessariamente negativo o dispregiativo o diminutivo. Enrico D'Arezzo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Niente, io telefonavo perché a volte capisco male, ma te se do del tu, perché sei toscano. Sono toscano, sì, e questo ci autorizza, diciamo, a darci del tu. Vai, va bene Enrico. Te hai detto che il modulo eviterà così al genitore di firmare la delega al compagno. Sì. Ma qual è la differenza tra firmare un modulo e una delega? Cioè, a me sembrano falsi problemi e false soluzioni a falsi problemi. Guarda, è possibile che siano una falsa soluzione a un problema non di primissimo piano. La differenza che io vedo è che la delega la devi firmare, diciamo, per ogni circostanza. Per quanto riguarda, per esempio, andare a prendere il figlio, per quanto riguarda partecipare alle riunioni, credo che senza quel modulo lì probabilmente il genitore, diciamo, non biologico, non naturale, non iscritto all'anagrafe, perché oggi la legge italiana non lo consente, probabilmente non potrebbe proprio partecipare alle riunioni. Attraverso quel modulo, quando la classe riunisce tutti i genitori, possono partecipare anche i genitori dello stesso sesso. Questo credo che sia un punto. Non so se basta, Enrico, per dare risposta alla tua domanda, ma insomma... Enrico, c'è ancora? Comprensiva, sì, ma sì. È come definirla una delega onnicomprensiva per tutta la scuola. Sì, cioè, sì. Qui è veramente cambiare il nome a una carta e dire se è trovata la soluzione. Cioè, questa è una supercazzola, tanto per ritornare al toscanismo. Vabbè, così, per usare un francesismo. Va bene, Enrico, è il tuo punto di vista. Grazie per essere stato con noi. Egle da Trapani, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno a voi. Allora, guarda, io volevo dire questo, che al momento bisogna stare molto attenti al momento della formazione delle classi delle materne, perché bisogna inserire un giusto numero di bambini hanno genitori eterosessuali e altri che hanno genitori che provengono da questi nuovi tipi di situazioni. Sì. Perché in teoria ai bambini non importerebbe niente, sono i grandi che poi a casa manipolano i bambini, e molti bambini, per esempio, che provengono da cosiddette famiglie normali, col veleno iniettato dalle famiglie arriverebbero in classe pieni e gonfi e pronti a rovesciare tutto questo veleno sugli altri bambini. Quindi questi bambini devono essere supportati da altri che si trovano nelle stesse situazioni. Egle, secondo me almeno questo è un inizio. Io la ringrazio per il suo intervento. Non era esattamente questo il centro, diciamo, della questione, il focus del tema su Bologna, era un altro, era il modulo per i genitori dello stesso sesso per andare a prendere i figli, ma tant'è. Grazie Egle. Tra poco, dopo il GR delle 9 invece torniamo e parliamo così di questo grande momento dello sport italiano, non solo tennis, c'è anche il basket, conosceremo un'iniziativa che viene da Cantù. Ci risentiamo dopo il GR delle 9 e aspettiamo anche i vostri segnali di ripresa economica. L'intervento più curioso, più interessante riceve un premio, la mini guida di Expo. 800 24 00 24. Fabbrica 2.4, viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nelle strade dei quartieri inglesi, a cosa pensano quando vince il sito, torna il sole, dopo interesse settimane negli appartamenti in Cina. È vero che non hanno Google e le domande se le fanno, perché sono sempre in fila. Andiamo a vivere su Marte, oppure arrivi sul mare per vedere le ragazze farsi male. Lost in the weekend, in the weekend. Lost in the weekend, in the weekend. Eccoci qua di nuovo. Buongiorno Alessio Maurizi, ben ritrovati cari ascoltatori con Si può fare, insieme fino alle 10. 800 24 00 24, aspettiamo anche i vostri interventi. Questa era la canzone Lost in the Weekend di Cesare Cremonini, che ci ha segnalato Mauro da Milano. Mauro che dice: non vede l'ora di perdersi nel weekend. Segnalateci il vostro Si può fare in musica sulla nostra pagina Facebook, Si può fare trattino Radio 24, sull'account Twitter @ Si può fare 24, e noi ogni sabato e domenica mattina manderemo in onda i vostri Si può fare in musica. Questa mattina siamo partiti dal caso di Bologna, l'autocertificazione per i genitori gay, proposta e attuata dal sindaco di questa città, Virginio Merola. Vi aspettiamo per commentare questa notizia o anche per raccontarci i vostri segnali di ripresa economica. C'è o non c'è questa ripresa economica? Perché la settimana che ci lasciamo alle spalle ci lascia con questi dati, segnali di fumo positivi dell'economia: una crescita dei consumi più 2,1%, ieri la crescita della produzione industriale più 1,1%, ripresa, ripresina, rimbalzo, come la vedete? 800 24 00 24, coda ai grandi magazzini, ristoranti pieni, come diceva Berlusconi. Siete andati a comprare l'ultima versione di smartphone ed era già esaurita perché i grandi magazzini sono pieni? Raccontateci se li avete visti questi segnali di ripresa oppure no. E anche oggi in palio mettiamo una mini guida di Expo per la telefonata più interessante, più curiosa. Alison da Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, volevo dire qualcosa su quanto è stato detto sulla proposta Bologna. Sì. La coppia, insomma, gay. Sì. Sinceramente penso che il sindaco ha usato il buon senso, quello che noi chiamiamo in inglese il common sense. Mm-hmm. E quando c'è un problema con le leggi, penso che c'è il compito delle persone che amministrano e di risolvere questi problemi. Quindi secondo lei quello che la Castaldini evidenziava come un difetto, cioè il fatto che non esiste una legge, diciamo, su cui il sindaco avrebbe potuto appoggiarsi, secondo lei invece è un pregio, perché lui ha proprio cercato di colmare questo vuoto di una legge che non c'è, con com'è che lo ha chiamato, il common sense? Sì, diciamo siamo pieni di leggi in Italia che, sì, insomma, dovrebbero aiutare le persone, non essere un ostacolo. Okay. Penso anche che essere, insomma, nato in una famiglia con cosiddetto normale, che non mi piace, diciamo forse tradizionale, non è la garanzia per nessun bambino di vivere felice. Vabbè, ma questo poi è un altro discorso. Penso anche che c'è la possibilità, sì, anche con una coppia gay, ecco, penso così. Non vedo, non capisco tutto questo sospetto a confronto di coppie gay qui, poche volte, da alcune persone qui. Grazie Alison, grazie, buona giornata. Sentiamo Pasquale che chiama da Latina invece. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa vuole intervenire Pasquale? Sì, volevo dire tante cose per quanto riguarda il lavoro. Una piccola cosa veloce, poi passo subito alla mia esperienza. Sì. Volevo dirvi, vi ringrazio, parlate per favore, parlate, continuate a parlare con i giornalisti del lavoro, perché è quello che sistemerà le cose. Sembra una cosa ovvia, ma secondo me dovrebbe essere impostato così: il lavoro è più importante del pane. Così come durante la guerra si cerca di distribuire il pane, il grano per tutti, per chi combatte, per chi no, sì, anche il lavoro bisogna fare così. Vabbè, noi ne abbiamo parlato stamattina, Pasquale, abbiamo raccontato la storia dell'Albaville. Della Petroline, scusi, di Albavilla, questa azienda recuperata da 9 dipendenti che hanno aperto una cooperativa per rilanciarla dal fallimento. Quindi, insomma, abbiamo dato il nostro contributo. Pasquale, cos'altro voleva aggiungere? Allora, le dico cosa abbiamo fatto, sì, noi: ci stiamo dando lavoro a 7 persone, sì, pur essendo dei volontari. Noi abbiamo un'associazione di genitori che hanno dei ragazzi con dei problemi, li chiamiamo ragazzi, ma adesso il nostro ragazzo da pure più di 40 anni, sì, e non avendo supporti adeguati dalle istituzioni, perché ci stanno tanti supporti ma non tanto quanto specialmente dopo di noi, abbiamo cercato di fare questo obiettivo. Non trovando la strada siamo andati in banca, faccio velocemente, siamo andati in banca, abbiamo detto ci impegniamo in prima persona, abbiamo firmato personalmente la nostra fiduzione e abbiamo cominciato a lavorare. A quel punto. E cosa fate però, Pasquale? Che cosa fate? In cosa consiste questo lavoro? Consiste in. L'obiettivo era quello di costruire un dopo di noi per i ragazzi. Nel frattempo, mantenevamo un centro diurno, abbiamo una ventina di ragazzi disabili, sì, e diamo lavoro a 7 persone. È un centro privato, i genitori pagano per portare privato i figli. Come associazione, però sì. Come okay. associazione, quindi con pochissimi soldi. Dei contributi dei soci, sì, riuscite comunque a dare da lavoro a 7 persone per, diciamo, l'aiuto, il sostegno, l'accompagnamento a questi 20, a queste 20 persone. Grazie Pasquale per la vostra iniziativa, per la sua testimonianza. È anche questo a suo modo un segnale di ripresa. Adesso ci fermiamo per il traffico, ritorniamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. All right. Sulle note di Space Jam, ricorderete la musica del cartone animato nel quale aveva recitato anche Michael Jordan. Parliamo, sì, di questo, di basket, del momento bello dello sport italiano. Ieri il tennis, momenti esaltanti, stasera la finale tra Roberta Vinci e Flavia Pennetta, lo US Open, c'è il basket italiano che agli europei ha raggiunto risultati importanti. Gli ottavi di finale si svolgeranno domani, Italia e Israele. Noi adesso però parliamo di una iniziativa che riguarda una piccola eccellenza. Nasce Basketball for English, un nuovo progetto che viene da Cantù, grande tradizione di basket. Buongiorno ad Antonio Tieghi, responsabile del mini basket di Cantù. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, sì, cioè è un'iniziativa, ci hanno già pensato diverse scuole, università. Adesso io dico, per esempio, a Milano recentemente in alcuni licei si sperimentano corsi tutti, sì, in inglese, al Politecnico, sì, di Torino, sì, e di Milano si fa lezione all'università in inglese già da alcuni anni. Adesso arriva anche lo sport. Come nasce questo progetto, Tieghi? Sì, allora, anche nella scuola primaria, nelle scuole si sta introducendo l'abitudine di mettere gli insegnanti a madrelingua a supporto degli insegnanti. Allora abbiamo pensato di affiancare ai nostri istruttori un allenatore, si chiama Patrick Jonsen, che ha fatto allenatore nei college dell'Indiana. Allora la sua proposta è molto semplice, dice: io verrei nei vostri gruppi proponendo un percorso di 8 lezioni, sì, con la prima lezione lui farebbe una specie di introduzione di vocabolario tecnico finalizzato alla pallacanestro, non so, il tiro, la palla, così. A seguire poi ogni primo lunedì del mese lui verrebbe a fare allenamento con i nostri ragazzi proponendo proposte di tipo ludico, perché chiaramente la fascia d'età ha una caratteristica prevalentemente di apprendimento ludico, sotto forma di gioco, e lui sarebbe proprio il promotore di questa forma di apprendimento motorio e anche linguistico. Così poi se vanno nella NBA, come ormai capita sempre di più, certi italiani sono già pronti, si portano avanti. Ma che età hanno questi ragazzini, cioè questi bambini? Allora, noi abbiamo privilegiato la fascia, diciamo, centrale del percorso della scuola primaria, sui 7, 8, 9 anni, perché prima ci sembrava un attimino prematuro, anche se nelle scuole dell'infanzia qualcuno tenta già di mettere qualche vocabolo in inglese. Comunque ci sembrava che la fascia prioritaria di interesse fosse la fascia centrale, e quindi dove anche l'attenzione è un attimino più marcata. Perché effettivamente i piccoli vanno seguiti sotto altre forme. La fascia centrale, poi quando arrivano a 10 anni già chiedono del tecnicismo, allora lì siamo già un pochino più attenti a determinate cose. Senta, possiamo anche dire una cosa però su questo fatto di portarsi avanti nella conoscenza dell'inglese ed introdurlo in uno sport bello e importante come il basket, in una città come Cantù dove c'è una tradizione grandissima. Io ho più volte detto: firmiamo la petizione che c'è online per usare l'italiano, si chiama Dillo in Italiano, è un hashtag che circola, però possiamo dire che sono due cose diverse. Cioè, un conto è insegnare fin da piccoli ai nostri bambini l'inglese in un contesto bello come anche dello sport, un conto poi non utilizzare l'inglese a sproposito per dire qualunque cosa che si può dire anche in italiano. Sono due mondi diversi. L'intento che voi avete è quello, ce lo ricordi, di familiarizzare questi bambini. Diciamo che noi vorremmo arricchire di competenze linguistiche, diciamo, nel bagaglio e nel cassetto della memoria dei ragazzi, queste competenze linguistiche che poi potrebbero venire utilizzate con l'andare del tempo, chiaramente senza arrivare ad esagerazioni linguistiche che poi effettivamente vanno al di là di quello che è il parlato comune italiano. Perché poi uno la lingua può conoscerla, può saperla, può utilizzarla nel contesto necessario, quando sono contesti internazionali, ma non in qualunque momento per dire conference call anziché videoconferenza, per esempio. Questo è solo un esempio. Senta, il basket vive un gran bel momento. Adesso non cantiamo vittoria, perché insomma la vittoria con la Spagna, tutti felici, però adesso bisogna andare avanti, ci sono gli ottavi domani con Israele. Da tecnico dello sport, come vive queste ore? Ma guardi, è un'emozione, perché questa pallacanestro italiano sempre vituperata, dicono che i settori giovanili non producono più giocatori all'altezza. Effettivamente i tre giocatori NBA sono una ricchezza per noi, accanto a loro però anche tutti i compagni di squadra. Ce n'è qualcuno canturino? Ce n'è qualcuno che è passato da voi? Stiamo lavorando bene sul settore giovanile, che è stato sempre una priorità del nostro caro presidente Alieri, che ha fondato il college a Cantù. E praticamente accanto alla Serie A stiamo privilegiando con Progetto Giovani una scuola. Partiamo dal mini basket, che è un'agenzia educativa di crescita, vengono poi fatti crescere nel Progetto Giovani. Dopodiché già quest'anno abbiamo quattro giocatori nostri del Progetto Giovani Serie A. Abbiamo Luca Cesana, abbiamo Abbas, abbiamo Zugno e abbiamo anche il Cartis. Sono quattro giocatori che provengono dai nostri settori giovanili, quindi la pallacanestro italiana è viva, le nostre nazionali in giro stanno facendo bene, e la punta di questo iceberg è la nostra nazionale, che ci sta dando grandi soddisfazioni, e speriamo ce ne dia ancora. Come mai il basket resta uno sport secondo lei? Insomma, probabilmente non avete spesso molte vetrine, nelle prime pagine o nelle trasmissioni televisive si parla soprattutto di calcio, quasi sempre solo di calcio. Come mai il basket invece resta uno sport dove i tifosi non s'azzannano quasi mai, non ci sono scandali quasi mai o anche mai? C'è un segreto ancora oggi che resiste? Ma probabilmente il calcio ha molto più visione rispetto alla pallacanestro, ha molto più praticanti rispetto a noi, e è molto più seguito dalla gente. Noi siete un'isola felice in qualche modo. Sì, comunque guardi, vi posso garantire che allenando anche il calcio, essendo insegnante, facendo le due cose, due mondi diversi, ma due mondi ricchi, sia il calcio che la pallacanestro. Il calcio dalla sua miglior visibilità, e praticamente uno dei praticanti è superiore al nostro. Di conseguenza noi ci stiamo ritagliando con risultati, con diciamo, proposte educative di un certo livello, la nostra piccola fetta di visibilità. Senta, chi dobbiamo temere di più per questa corsa all'europeo, a parte il prossimo scontro con Israele? Ma guardi, i serbi l'altro giorno ci hanno dato una lezione, assolutamente. Beh, no, una dimostrazione della loro forza. Noi ci tenteremo fino in fondo e speriamo di arrivare proprio fino in fondo, di ripetere Berlino e Nantes. Ecco qua, questo è l'augurio per la nazionale. Va bene, ce l'auguriamo anche noi naturalmente. Intanto complimenti per questo bel progetto, Basketball for English, l'avete chiamato così giustamente in inglese, perché come altro dovevate chiamarlo. Complimenti Tieghi, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi, buongiorno, buona giornata. Grazie per essere stato con noi, il responsabile tecnico del mini basket Cantù, che ci ha parlato appunto di come e quando i bimbi del 2006, 2007 e 2008 inizieranno un vero e proprio corso di inglese mentre si alleneranno giocando a pallacanestro. 800 24 00 24. Noi cari ascoltatori facciamo una breve pausa, ci fermiamo, torniamo tra un attimo di nuovo anche con i vostri interventi, a tra poco. Sentirsi come papà senza santi da pregare si può fare, ed avere tanti soldi da poterseli rubare si può fare. Eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo benvenuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. Siamo alla ripresa di Si può fare nella collocazione weekend, il sabato mattina dalle 7.30 alle 10 del mattino, domani dalle 8.30 alle 10. Come sempre siamo aperti ai vostri interventi e anche oggi mettiamo in palio la mini guida di Expo per la telefonata più interessante, più curiosa, più divertente, che ci parli dei segnali di ripresa economica che questa settimana ci ha lasciato in eredità. Emilio da Ravenna, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Forte e chiaro, Emilio, prego. Ecco, l'unica cosa che volevo dire è che vedo più mobilità sulle strade, più camion, più macchine. Sì. Io vivo nella zona di Ravenna, andando verso Ancona, in 2 anni non c'era traffico. Lei cosa fa, l'autista? Viaggia spesso? No, io viaggio perché vado in giro per palestre, per arrampicare, eccetera, eccetera. Io sono in pensione. Ah. E insomma, vedevo... E vado ad arrampicare? Anche. Zona Frassassi. Niente, io vedevo che c'era più traffico gli ultimi 2 anni. Invece adesso, lo dico con piacere, vedo camion, vedo gente che si muove. Questo è l'unico... è un segnale che io ho notato. C'è più gente in strada. Magari si fa qualche coda anche in più, forse, per questo motivo. Però insomma, dice Emilio, lo vedo con piacere perché è un segno delle cose che vanno. E cosa di più significativo che vedere le strade piene di auto e di camion che girano, che non pensare, diciamo, altre forme di ripresa dell'economia. Non che sia un elogio questo della andatura su camion o del trasporto appunto merci su camion, perché sappiamo che vorremmo vedere girare anche molti treni in Italia, ma va bene così. Grazie Emilio. Paola da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, io volevo intervenire circa il basket. Sì. Ho sempre giocato a basket io sin dall'età di 12 anni e ne ho 59, quindi... adesso non gioco più, però partecipo attivamente a squadre che hanno vivai di giovanili, e credo che i vivai delle giovanili siano molto importanti, ma non vengono supportati soprattutto dallo Stato o da enti che abbiano la possibilità di intervenire economicamente, in quanto in Italia purtroppo esiste solo il calcio. Paola, ecco, questo era il mio intervento. Oltretutto io, non per dire che cosa faccio nella vita, ma purtroppo sono un insegnante e seguo i ragazzi sia in palestra che nella scuola. Ma sa cosa le dico? Forse meno male che le televisioni non seguono tanto il basket, che non ci sono troppi interessi sul basket, che potrebbe, rischierebbe forse, non lo so, glielo chiedo, di trasformarsi, di snaturarsi e di perdere un po' questa... cosa di Isola Felice, per lei che lo ama e lo segue, che lo fa essere diverso forse dal calcio, non lo so. Paola, come la vede? Bisogna che sia diverso, perché ci sono troppi interessi nel calcio e soprattutto i ragazzi, però questo è una cosa negativa, i ragazzi guardano il calcio come fonte di guadagno molto spesso. Va bene, Paola, grazie, buona giornata, grazie per essere stata con noi. Adesso è il momento di ritrovare un nostro amico, il nostro uomo del futuro, l'inviato nei lavori che cambiano. Vai. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. Ritrovato Massimo Temporelli. Ciao Massimo. Ciao Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Massimo Temporelli, fisico, scrittore, divulgatore. Cosa potremmo aggiungere? Scusa, aggiungiamo che questa è la sigla più bella di tutto il panorama radiofonico italiano. Beh, bella, l'abbiamo scelta per il nostro Andrea Piana, è stato un genio a trovare questa, ad associare questa musica al tuo intervento, Massimo. Innovatore, l'ultimo libro che hai scritto, Come pensano le persone che cambiano il mondo, breve storia del futuro. Vabbè, di questo parliamo perché la tua ultima fatica letteraria è molto interessante. Però voglio partire con te, riprendiamo il ritmo. Con le notizie, dai, perché abbiamo delle notizie straordinarie. Intanto c'è una stampante 3D, sembrava che ne abbiamo parlato, no? Fossero per giocare, per stampare cosine per giocare, invece ce n'è una italiana che serve a costruire case addirittura, è vero? Sì, potrei dirti, ve lo dicevo io, no? Diceva. In realtà appunto quella che sembrava e continua un po' a sembrare una passione per pochi, un progetto visionario, in realtà sta prendendo concretamente piede nel mondo industriale. Si tratta ancora di poche applicazioni rispetto alla grande massa delle applicazioni umane, però appunto a Massa Lombarda, a Ravenna, come ben sai, ci sarà un grosso evento a metà di ottobre, quindi del mese prossimo. Si stanno già però preparando, se andate sul loro sito di WASP, che vuol dire Vespa, e che è proprio un po' la tecnologia che questi sperimentatori, gli stampatori 3D, stanno utilizzando da parecchi anni per costruire case in 3D. È pazzesco. È pazzesco soprattutto questo risultato, perché Massimo Moretti, che da sempre lavora con il suo team per arrivare a questo obiettivo, sembra che ci sia arrivato, cioè costruire una casa o far costruire una casa a una macchina, una casa di argilla di 12 metri di altezza circa, la base non lo so, possiamo fare un calcolo, ma sarà circa 4-5 metri di diametro, e la sua idea è quella del chilometro zero, cioè sposare le nuove tecnologie con il chilometro zero. Vabbè, cioè, più chilometro zero di questo, cioè se la fanno lì per lì. E infatti usano l'argilla magari in Africa piuttosto che nei paesi in via di sviluppo, si trasferisce soltanto la tecnologia, non più la materia, certo. E si costruisce la casa in loco. Una bellissima idea, un bellissimo sogno. A me viene in mente però, sai, le costruzioni che faccio con mia figlia, i Duplo, magari è anche antisismica questa casa, proprio per come nasce, chi lo sa? Questo potremmo studiarlo nei prossimi giorni, credo che sicuramente la natura, se lo fanno le vespe, mi ispira che siano abbastanza avanzate come tecnologia. Scusate il bisticcio di parole natura e tecnologia, però molto spesso gli uomini e quindi la tecnologia e la nostra cultura deve ispirarsi al mondo naturale perché ha più anni di esperienza, quindi questo è un po' un progetto di questa matrice, molto interessante. Poi c'è un'altra cosa che mi ha fatto impazzire ed è la proposta del presidente dell'INPS Boeri di utilizzare il drone contro il caporalato, perché cioè per far girare i droni e chiaramente beccare chi devono beccare, sì. I caporali, insomma. Sì, i droni sono davvero ormai forse più della stampa 3D su tutte le pagine di tutti i giornali, un po' per gli incidenti che stanno avvenendo, perché appunto pensavo che stanno causando i droni. No, non stanno causando gli incidenti i droni, no. Purtroppo dobbiamo dirlo perché sennò sembriamo sempre degli ottimisti e basta. Si può fare naturalmente, però bisogna stare molto attenti. Addirittura Chris Anderson, che fu il fondatore di Wired, uno degli uomini più potenti nel mondo del settore tecnologico, sì, è un po' arrabbiato per questo uso un po' sconsiderato dei droni, perché chiunque le può comprare a 10 euro, farli volare anche in zone dove è davvero pericoloso farli volare, banalmente sulle autostrade. Ma non ci vuole una patente? Non si era detto che ci voleva un'autorizzazione? Oppure oggi puoi comprare un drone e farlo volare tranquillamente dove ti pare? Sotto i 2 kg credo che chiunque possa fare qualunque cosa. I 2 kg sono veramente tanti. Stiamo parlando del peso del drone. E quindi veramente tu vai in un negozio di giocattoli e ti compri un drone da 500 grammi che però se ti cade in testa mentre sei in moto in autostrada o va a finire tra i reattori di un aereo in decollo, è un casino. Allora cosa è successo? Anderson ha proposto questo, che è un'idea che voglio dire perché secondo me è molto bella e fa capire quanto la tecnologia ci può aiutare a combattere gli abusi tecnologici. Dentro i droni c'è un microcomputer praticamente che è collegato al GPS, al sistema dei satelliti. Allora basterebbe disattivare, dice Anderson, i droni nella loro capacità di decollare nelle zone pericolose all'interno delle città, vicino alle case, vicino agli aeroporti, vicino alle strade. Questa è bellissima perché appunto è la tecnologia che aiuta a superare la stupidità dell'uomo che accende il drone in zone dove non si può accendere. Speriamo, quindi, insomma, che lo facciano, di non giocarci un'invenzione così entusiasmante come il drone, che potrebbe appunto, secondo Boeri, il presidente dell'INPS, è una cosa che io trovo geniale, far volare dei droni non costerebbe niente in giro e riprendere con le immagini e stanare i caporali che lucrano sui pochi euro che guadagnano i raccoglitori di frutta. Veniamo però al tuo libro, Massimo, innovatori. Però devo dire una cosa, sei partito con una citazione di Baricco, pensavo di qualcosa di più innovativo, sinceramente. No, ma mi piace l'idea, alla fine sono un raccontastorie, no? A volte mi sento nel posto giusto a raccontare storie, altre volte dico dovrei farle raccontare alle scienziate, alle persone che lavorano veramente su queste cose. Allora io sono a metà tra questi due mondi, tra chi racconta le storie e tra chi produce la storia. Allora, in quella frase di Baricco che dice che l'uomo non sarà mai fregato fino a che avrà una storia da raccontare, mi rivedo molto, cioè io professionalmente non sarò mai fregato finché troverò qualcuno a cui chiedere, domandare un po' le loro competenze, la loro capacità di inventarsi il futuro e trasferirlo a persone che probabilmente quel linguaggio non lo sanno parlare, no? Le persone comuni, le persone che probabilmente ci stanno ascoltando la radio, spero in migliaia di migliaia. E allora e ancora c'è più. Un bisogno di un ponte tra la scienza e la società comune. Allora, raccontare le storie è un modo molto divertente per diffondere la cultura scientifica, la cultura tecnologica. È chiaro che bisogna un po' semplificare, è chiaro che bisogna un po' tagliare, perché appunto la profondità che gli scienziati raggiungono è devastante. A volte ne pago tasse per primo io, però è un mondo talmente bello, talmente che sta di futuro, che non si può non raccontare. Quella citazione iniziale era proprio quello, cioè bisogna raccontare storie di innovazione perché fanno bene, e penso che voi facciate lo stesso, no, in radio. Grazie, sì, ci proviamo. No, ti ho preso un po' in giro su Baricco, perché è un grande scrittore. Non però ti piace. No, invece è un grande divulgatore. È un grande divulgatore, anche lui, senz'altro. Invece parti subito con un salto nella Silicon Valley. Intanto ti voglio chiedere se secondo te resta il centro propulsore dell'innovazione nel mondo, oppure se presto Cina, India o qualche altro posto scalzeranno la Silicon Valley, secondo te? Secondo me è una questione culturale, l'innovazione è veramente complessa da ripetere, o meglio è difficile costruire quelle condizioni per cui l'innovazione possa avvenire. I cinesi adesso hanno una potenza economica data dalla loro capacità manifatturiera gigantesca, non credo però che il design, cioè i progetti che oggi in Silicon Valley vengono generati siano alla portata dei cinesi, sì. Però magari mi sbaglio. E questo però mi dà il là per dire che in Italia dobbiamo tornare a progettare, perché noi abbiamo una cultura dal Rinascimento all'epoca romana, anche al Novecento, insomma abbiamo una cultura talmente grossa che dobbiamo metterla in campo per creare non cultura, ma cultura del progetto, tornare a produrre oggetti, produrre servizi, perché veramente rispetto dei cinesi, che appunto sembrano ormai i capi del mondo, abbiamo un'arma in più, che è quella della cultura, e la cultura è fondamentale per il progetto. Non che i cinesi non ce l'abbiano, ma noi ne abbiamo una quantità, soprattutto in Italia, che potrebbe aiutarci davvero. A proposito di cultura, che cosa sono the rules of the garage, cioè le regole del garage? Stampiamole su tutti i comodini dei ragazzini, sono 11 regole che hanno dato avvio praticamente alla Silicon Valley, perché sì. Hewlett e Packard, i fondatori di HP, erano giovanissimi ingegneri e stamparono queste 11 regole, che non sono regole amministrative o quelle che vengono chiamate flowchart, so che tu, no, sono di sogno, no? C'è proprio questa cosa, la prima regola è ricordati che puoi cambiare il mondo. Questa è una cosa un po' da invasati, però è più che da inventare. No, è vero. Perché quando tu lavori, alla fine l'idea di andare in un posto dove devi far fatturato va benissimo, anzi alzo la mano e voto per questa cosa, perché il fatturato poi porta anche ricchezza sul territorio e quindi benessere, però l'idea che tu stia facendo qualcosa per cambiare il mondo è più forte, è più forte. È più forte, forse ti fa lavorare meglio, ti fa stare meglio. Va bene il fatturato, ma se pensi subito al fatturato, probabilmente nel processo di ricerca e di creativo non vai da nessuna parte, detto così con una sintesi. Poi c'è una cosa bella sull'età degli innovatori, c'è questo 27 che ritorna. 27 anni. Io ho fatto una ricerca statistica, l'amico Luciano Canova ne ha fatto una più seria perché è un economista, sì. Io l'ho fatta sui 100-150 casi di invenzioni che ho studiato nella mia vita un po' più approfonditamente, e si nota come l'età in cui viene l'idea, diciamo, rivoluzionaria è posta tra i 25 e i 30 anni, anzi forse tra i 23 e i 27 anni, quell'età lì. Cioè proprio appena ci si è laureati ha quella competenza e quella consapevolezza sufficiente, ma legata appunto a quella voglia, a quella presunzione di saper cambiare il mondo che ti fa fare qualcosa di rivoluzionario. Io e te, Massimo, siamo già dei reperti del antiquariato, io con poco più di 40, tu più o meno. Però hai visto nel grafico, ho messo il grafico nel, però c'è una coda che si abbassa verso 50-55, quindi siamo ancora lì dentro. Ce la possiamo fare. Chi è l'innovatore che ti piace di più della storia? Ce n'è uno? Io sono quello Yankee di Thomas Alva Edison col sigaro in bocca che dorme in laboratorio, è un po' l'icona della mia vita di innovazione. Edison che tra l'altro è uno di quelli, forse è il record al mondo di brevetti nella più storia. Più di 1000, sì, qualcosa del genere. Ed era uno che spremeva la scienza a favore dell'innovazione, naturalmente era odiatissimo da quasi tutti, però era veramente un personaggio capace di portare, è uno spingitore di futuro, così lo chiamo quando parlo con gli amici, perché veramente ci ha portato, cioè la lampadina, ha inventato la corrente elettrica e la distribuzione insieme a Tesla, la Westinghouse, ha inventato il suono, il grammofono, cioè è un po', adesso senza fare paragoni, con un personaggio più noto, però Steve Jobs è paragonabile a quel personaggio, magari non era colui che entrava in officina realmente a costruire le cose, si circondava di grandissimi collaboratori e metaforicamente li frustava per spingere avanti di un passo la tecnologia che stavano per inventare. E chissà, quindi questa cosa e chissà, piace, chi, e chissà chi lo spingeva, spingitori di innovazione, ma questa sarebbe un'altra storia, una citazione guzzantiana. Massimo, grazie per essere stato con noi. Massimo Temporelli, autore di Innovatori, come pensano le persone che cambiano il mondo. Felice di averti ritrovato nel ritorno di Si può fare nella versione sabato e domenica mattina. Ciao, a presto! A presto. Un abbraccio, ciao. Eccoci qua, allora c'è il traffico, ritorniamo e poi avevamo tempo anche per incontrare Giorgione, il mitico chef testimonial del Festival del Cibo di Strada, tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Potrai correre nel sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ultimo spicchio di trasmissione Si può fare, torna nella versione weekend il sabato mattina, dalle 7.30 con una breve rassegna stampa, poi GR delle 8, i nostri approfondimenti, l'unico programma inimitabile, a caccia sempre di buone notizie, fino alle 10, quindi tra poco finiamo, anche con i vostri interventi. Questa mattina, cari ascoltatori, vi abbiamo chiesto di partecipare, di giocare con noi in palio alla mini guida di Expo per la telefonata più interessante, più curiosa, più divertente, i vostri segnali di ripresa economica. Vedete dei segnali attorno a voi di questa ripresa, ripresina, rimbalzo, chiamatela come volete, perché la settimana che si chiude ci lascia in eredità proprio questo, cioè una crescita dei consumi in quest'estate, spiagge piene, più 2%, la crescita della produzione industriale, il dato di ieri. Però noi vi chiediamo, attorno a voi, cosa vedete? Marco da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io da piccolo andavo sempre al mare a Monte Rosso, Cinque Terre, un posto incantevole, e quest'anno volevo portare mia moglie, ci siamo andati altre volte, ma quest'anno ho detto facciamo un periodo di ferie a Monte Rosso in settembre, che non ci sarà quasi nessuno in settembre. Non abbiamo trovato nessun albergo a disposizione, erano tutti completamente pieni per tutto il mese di settembre. Non mi sarei aspettato una cosa del genere, quindi io credo che anche questo sia un segnale di ripresa. Noi andremo ugualmente a vedere Monte Rosso un giorno, ma non possiamo permetterci un periodo di ferie perché c'è pieno. C'è pieno, completamente pieno. Ma questo, diciamo, tutto il mese di settembre. A settembre, tutto, pensa. Sì. Chissà però se saranno turisti italiani o turisti stranieri, chi lo sa questo? Però non lo so, questo non lo so. Gli alberghi numericamente non sono tanti a Monterosso, però il fatto che tutto il mese di settembre non ci sia una disponibilità per una settimana, credo che sia un segnale importante. Inequivocabile, secondo lei. Senta, ma in passato le era mai capitata una cosa del genere? Cioè, recentemente? No, a settembre ho sempre trovato posto. Sempre trovato posto. Quindi è vero, lei confermerebbe, perché quest'anno tra le cose che si sono dette è che c'è stato un ritorno degli italiani in vacanza sulle spiagge italiane, spiagge piene, e lei ci sta confermando, a Monterosso a settembre non si trova posto. Grazie Marco da Reggio Emilia, grazie per essere stato con noi, questo era un segnale di ripresa. Vediamo invece che cosa ci racconta Costantino dalla provincia di Caserta. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo dire che a me mi sembra di sentire una radio da uno stato straniero. Perché? Cioè, voi parlate, sì, di ripresa, sì, italiani in vacanza, però sistematicamente Emilia Romagna, Toscana, il nord. Sì. Ma non vi mai chiedete, diciamo, di noi che siamo al sud. No, ma guardi, vacanze, Costantino, lo so, lei adesso mi dica tutto, però io parlo di Italia in generale, sto ai dati che sono stati diffusi quest'estate e chiedo agli ascoltatori, appunto, di confermarci o smentirci. In questo caso lei cosa ci vuole smentirci? Ecco, cosa ci noi vuole? Siamo, diciamo, un appendice dell'Africa e dobbiamo cercare in tutti i modi di venire in Europa, perché per esempio da me, no, nella mia zona Alto Casertano, Matesino, è un deserto, non ci sono fabbriche, non ci sono industrie, e questa ripresa dell'1%, 1,4%, a noi non ci riguarda né oggi, né domani e né dopodomani. Quindi sono cose che noi sentiamo e ci auguriamo un domani di poter evadere, perlomeno i nostri figli, i nostri nipotini, visto che noi abbiamo una certa età, di venire al nord. Qua l'unica ripresa che c'è è quella di questi centri di accoglienza di profughi, dove una qualche cooperativa più ardita, qualche associazione apre un centro e si crea qualche posticino di lavoro a 600 euro al mese per 5-6 ore di lavoro al giorno. Vabbè, questo sì, non è certo questo che speriamo e che pensiamo, che immaginiamo quando parliamo dei segnali di ripresa. Comunque Costantino, grazie anche a lei per aver chiamato e per aver detto la sua. Entro la fine della trasmissione, cioè tra pochi minuti, diremo anche qual è stata la telefonata che ci è piaciuta di più su questo tema e che quindi si aggiudica la mini guida di Expo. Adesso pochi minuti per introdurre l'ultimo argomento. Vai. Vabbè, siccome l'avevamo annunciato, anche se adesso non ci risponde al telefono perché sarà impegnato nella giuria del Food Track Festival, Giorgione, lo chef Giorgione che non ci risponde, come mai il telefono, volevamo ripartire anche con lui, con questa nuova, con la ripartenza di settembre, che si può fare. Comunque, la notizia è questa, dall'11 a un appuntamento al 13 di settembre ad Assisi, cioè da oggi fino a domenica, anzi da ieri fino a domenica, si tiene l'edizione zero del primo, insomma, festival del cibo di strada in Italia. Quindi ci sono tutta una serie di poderose, colorate cucine su ruote che si metteranno in mostra ad Assisi con il meglio del cibo di strada. Il presidente della giuria, verrà dato poi un premio, è proprio lo chef Giorgione. Noi lo salutiamo caramente, anche se non ci risponde, perché siamo sicuri che sarà impegnato con le mani in pentola a cucinare qualcosa, oppure in un punto dove non prende il telefono. Allora ci sentiremo un'altra volta. Intanto però voglio salutare Carlo Gabardini. Ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Buongiorno, un grande abbraccio. Noi ci vedremo fisicamente la settimana prossima. Adesso c'è questa pausa per... Dove sei? Alla Blockfest. Sono alla Block, quella che una volta si chiamava la Blockfest, e dalla quale abbiamo già fatto altri collegamenti in altre puntate, sempre a settembre, che adesso si chiama Festa della Rete. Perché ormai il blog è un po' morto. Scusa, sì, ho usato il vecchio punto, nome, mi ricordavo che era questo vecchio. Ma anch'io lo uso, carissimo, perché siamo entrambi anziani e quindi anch'io qua in giro per Rimini, perché sono a Rimini, parlo di Blockfest e tutti i giovanotti e le ragazze mi guardano per dire che cos'è, perché ormai il blog è morto, perché sulla rete in pochissimo tempo tutto cambia. Sono qui, in realtà ieri ho fatto una cosa con Tim, oggi però invece presento il mio libro, forse meglio insisterei. Perché ridi? Perché ridi? Novelli. No, ridi forse perché non è una novità per gli ascoltatori di Radio 24. Perché non è una novità, esatto. E perché l'ho detto spesso, sì. E perché... Comunque gli ascoltatori hanno chiesto di te, ma dov'è Carlo? Cosa fate? Ripartire senza Carlo? Ma no, ma che siete pazzi. Io ne sono felicissimo, perché questa è la conferma che non sono stato licenziato, quindi il primo anno ho fatto lo stagista, il secondo anno era un giornalista in prova. Adesso non ti montare la testa, adesso non ti montare la testa. No, infatti dobbiamo scegliere un ruolo. Ecco, appunto. Anche perché finché non ti vedo, anche perché finché non ti rivedo non ci ricredo, capito, che mi torni da Rimini. Esatto, no, torno domattina, guarda. Va bene Carlo, senti, un grande abbraccio, ci sentiamo e ci vediamo prestissimo. Saluta a tutti. Perfetto. Alla festa della rete di Rimini. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e si può fare. Ciao. Allora, chiusura, perché dobbiamo chiudere. I saluti, io ringrazio Andrea Piana, autore insieme a noi di questo programma, Claudia Schiattone, redazione, assistente, tutto. Filippo Origi in regia quest'oggi, ci risentiamo domani alle 8.30 fino alle 10 con Si Può Fare. Ciao, buona giornata a tutti da Alessio Maurizi, un abbraccio.